2024 di Enrico Pagliarini. Bentornati, questo è il programma di tecnologia di Radio 24. Siamo in onda tutte le settimane, venerdì sera, domenica 13:30. Ma come sempre vi consiglio di abbonarvi alla versione podcast, la versione digitale di 2024. Trovate tutte le nostre interviste in versione integrale. Potete interagire con noi tramite la posta elettronica 2024, scritta in cifra, quindi 2024@radio24.it, oppure anche attraverso Facebook e Twitter, cioè la pagina di 2024 e anche l'account Twitter di 2024, oppure Enrico Pagliarini. In questi giorni uno dei commenti più frequenti in rete è quello dedicato a Pokémon Go, questo gioco che ancora deve arrivare in Europa, quindi avremo modo di tornare sul tema. È sbarcato negli Stati Uniti e in pochi altri paesi. È un gioco che si basa fortemente sulla realtà aumentata. Negli ultimi tempi abbiamo parlato molto di realtà virtuale, invece questo è un gioco che punta sulla realtà aumentata, che è un tema che negli ultimi tempi veniva utilizzato soprattutto a livello professionale. Ci sono molti sviluppi in realtà aumentata per il mondo professionale, per la manutenzione di impianti, eccetera, eccetera. E invece in questo caso torna alla ribalta la realtà aumentata con questo gioco. Come funziona? Molto molto semplice, anche molto divertente, però tutto ciò crea alcuni momenti di pura follia. Allora, si installa questa applicazione e lo scopo del gioco, uno degli scopi del gioco, è cercare i Pokémon. I Pokémon in questo gioco, in questo Pokémon Go, sono distribuiti in tutto il mondo in maniera più o meno casuale. Come si fa per individuare, intercettare e poi catturare i Pokémon e farseli propri e guadagnarseli? Apre questa applicazione, l'applicazione attiva la fotocamera, uno guarda la realtà, cioè il mondo che lo circonda, attraverso la fotocamera, quindi attraverso il display dello smartphone, quindi lo schermo dello smartphone. E uno magari guarda davanti a sé, normalmente vede che c'è una strada, e se questa strada la guarda tramite la fotocamera, la videocamera dello smartphone, magari attraverso il display vede che c'è un Pokémon, e questa si chiama realtà aumentata. In quel caso può catturare il Pokémon. È una cosa un po' anche folle, se volete, anche perché il risultato è che ci sono scene di gente che passeggia per strada guardando lo smartphone, cercando questi Pokémon in giro da una parte e dall'altra. Ci sono state anche scene in cui negli Stati Uniti alcune persone sono entrate nel cortile di un vicino di casa perché nel cortile era posizionato un Pokémon che non ne volevano prenderlo. Follie a cui porta questo tipo di giochi. Poi ci sono anche tutta una serie di dibattiti relativi a tutte le richieste che l'applicazione fa in termini di privacy. Vedremo se poi i creatori di Pokémon decideranno di cambiare alcune impostazioni di privacy di questa applicazione. Poi vedremo anche come si evolverà. Comunque c'è stato un vero e proprio boom di download, di richieste, tant'è che i server che erano stati pensati per un certo tipo di carico, un certo tipo di traffico, sono stati presi d'assalto, e quindi si sono in alcuni momenti resi indisponibili. E questo è anche uno dei motivi per cui il lancio internazionale in altri paesi di Pokémon Go è stato posticipato. Dunque torneremo sicuramente a parlare di questo tema, che è anche un tema, non è solo un videogioco, ma è anche un tema tecnologico. Iniziamo questa settimana parlando di soldi. Allora, sapete che in quel vasto mondo chiamato FinTech, che è una crasi tra finanza e tecnologia, tra finance e technology, il mondo del FinTech è popolato di un sacco di soluzioni sicuramente una tendenza guidata dalla tecnologia, quella di sostituire il tradizionale sistema bancario, il tradizionale sistema dei pagamenti con applicazioni sullo smartphone. Tutti nel settore stanno guardando all'evoluzione tecnologica, ci sono investimenti molto pesanti in tutto il mondo, anche in Europa, su start-up e su nuovi servizi. E a proposito di investimenti, con un investimento di 30 milioni di euro è stata lanciata da Sator una nuova applicazione per smartphone, sia Android che iOS, per fare pagamenti mobili, per scambiare soldi fra le persone, per pagare proprio in un negozio. E uno potrebbe dire l'ennesima applicazione. È un nuovo servizio che si inserisce appunto in questo affollato mercato delle app, tra l'altro in attesa che in Italia arrivino grossi player internazionali come Apple Pay e anche Samsung Pay, che direi sono forse a livello internazionale i soggetti, i servizi più rilevanti. Allora, questo nuovo servizio si chiama TNABA, che sta per This is not a bank, sarà disponibile per tutti a partire da settembre. Per il momento è solo un servizio che è riservato ad una cerchia di utenti in fase di test, però la dice lunga sull'attenzione, sul fermento che c'è in questo settore. Allora, sentiamo Matteo Arpe, che ho incontrato questa settimana, che è un noto banchiere, insomma un passato in tantissime grandi banche, è l'ideatore di questo nuovo servizio, nonché amministratore delegato di Sator, che è la società che ha lanciato e ha fatto l'investimento più importante per lanciare TNABA. Allora, TNABA è un ecosistema digitale che diciamo è qualcosa di più di un sistema di pagamenti, perché contiene anche una banca, contiene sistemi di investimento e di finanziamento. Il nome deriva da, è un acronimo di This is not a bank, che è stato quello inizialmente utilizzato per identificare che non si voleva essere una banca, nel senso che TNABA lavora in congiunzione con una banca, in questo caso una banca italiana, ma poi opererà con altre banche, una per paese, quindi una in Francia, in Germania, in Spagna, in giro per il mondo. Però non è una banca. Non è una banca. Per diventare clienti o comunque per utilizzare questo servizio, che cosa è necessario fare? Ma è necessario semplicemente avere uno smartphone, cioè un telefono, scaricare l'applicazione che è gratuita, e di fatto si entra in un mondo che man mano evolve insieme alla persona e che abilita una serie di servizi che sono fatti sempre in congiunzione con una banca in ogni paese in cui sia. E quindi sostanzialmente è una logica di ingaggio tipica di un social, quindi non è una logica bancaria. Facciamo degli esempi per far capire agli ascoltatori che cosa si può fare. Ma si possono fare diverse cose. Quello che noi annunciamo oggi è un sistema che permette quattro innovazioni. La prima è un sistema di pagamenti, oltre di trasferimento fra persone, gratuito, per sempre e ovunque. Quindi vuol dire zero commissioni per sempre, che è un'innovazione unica al mondo, nel senso che ci basiamo su una logica per cui effettivamente ci possiamo permettere di fare a gratis, quindi in maniera gratuita, quello che normalmente viene fatto pagare. Questo libera una serie di altre cose. La seconda, devo dire, innovazione è che il pagamento non è più dove è la cassa, e quindi dove è il venditore, ma è dove è l'acquirente, quindi avverrà in mezzo al negozio. Oggi lo presentiamo, non è più necessario andare alla cassa, nel senso che la fattura arriva direttamente insieme alla transazione, quindi non è necessario fare la doppia fila, sostanzialmente nei negozi. La terza è che permette di creare una serie, diciamo, di conti comuni, tutta una parte social che è molto diciamo è innovativa, nel senso che oltre ai soldi propri ci sono i soldi della famiglia, dei figli, dell'azienda anche, quindi una serie di conti condivisi che si possono creare a piacimento, visto che tutti questi trasferimenti non hanno costo. Quindi è, come dire, un tridimensionale rispetto all'attuale situazione in cui o i soldi li ho o quelli che non li ho è perché li ho spesi. Il quarto e ultimo, diciamo, lato di innovazione è che invece di essere il pagamento l'ultima fase della decisione d'acquisto, TNABA assiste le persone nell'ambito della scelta di acquisto, e quindi, come diciamo, trasferisce in un ambiente fisico quello che normalmente è un riservato agli acquisti online, in cui c'è un'intelligenza che mi accompagna. Stiamo parlando di un settore che è quello del fintech, dove ci sono tantissimi investimenti, tantissime novità, tantissime proposte, molte anche a livello globale. Che spazio c'è per un player italiano sia sul mercato domestico ma anche sul mercato internazionale? È la domanda più importante, nel senso che oggi è un settore dominato da grandi realtà, soprattutto statunitensi, nel fintech. La nostra innovazione è che per la prima volta, anche rispetto a quei paesi, innestiamo le tecnologie direttamente dentro la banca e non sulla carta di credito. E quindi la tecnologia, per quanto potente possa essere, non può superare il sottostante, che in questo caso è la carta di credito. Connetterla direttamente con la banca libera una serie di servizi che oggi non sono possibili. Quindi di fatto è una modalità diversa di sviluppare la tecnologia. Qual è il modello di business? Perché se non fate pagare commissioni, ad esempio, come fate i soldi? Ma faccio un esempio: quando una persona trasferisce i soldi con la carta di credito, nell'azione del trasferimento dei soldi intervengono più banche e più società che fanno il clearing di questa operazione. Immaginiamo che facciamo un'operazione per 50 euro. Alla fine non è che questi 50 euro si spostano fisicamente, si sposta sempre un'etichetta o un'informazione, diciamo, elettronica. Se invece di movimentare da banca a banca rimango sempre nella stessa banca, cioè i soldi non si muovono, si muove soltanto l'etichetta, evidentemente ho semplificato e si può fare gratuitamente. Cioè la semplificazione, invece di andare sulle carte di credito, andando sulla banca, permette di semplificare tutta questa struttura e quindi i soldi rimangono fermi. E quindi il modello di business è basato su cosa? Ma il modello di business vuol dire che si riesce a offrire, se, diciamo, servizi bancari tramite la banca partner, quindi di finanziamento e di investimento. E quindi tutti i modelli di servizi bancari tradizionali, però questa volta con una logica nuova sui clienti. E quindi il modello di business è, diciamo, di portare l'attuale modello bancario e i sistemi di pagamento, diciamo, verso una nuova forma di fruizione per i risparmiatori. Quella che avete sentito era la voce di Matteo Arpe che ci ha parlato di questo nuovo servizio TNaba. Dicevo, il mercato è sicuramente molto affollato, avrete sicuramente sentito parlare, anche perché ne abbiamo parlato a 2024, di Satispay, che è un'applicazione fatta molto bene, che si sta diffondendo, investimenti che sono stati fatti anche in questo caso di più di 8 milioni di euro. E probabilmente in futuro altri investimenti verranno fatti su Satispay, che è sicuramente uno dei player più interessanti in questo nuovo mercato delle applicazioni per i pagamenti in mobilità non basate su carta di credito. E poi nel mondo bancario c'è l'applicazione realizzata da SIA per le banche, ovvero GIFI, e molte banche hanno adottato questa soluzione. Banca Sella, ad esempio, o anche Mediolanum hanno la propria applicazione per fare pagamenti peer-to-peer, quindi per scambiarsi soldi tra le persone e anche per fare pagamenti, ad esempio, in alcuni negozi. Insomma, sono tutte evoluzioni in un mercato che sta cercando di proporre delle alternative ai grandi player internazionali che conosciamo, che comunque stanno arrivando o arriveranno. Beh, c'è chi dice che non saranno in molti a vincere in questo mercato. La sfida più importante sarà la capacità di diffondere il servizio presso gli esercenti, perché maggiore è la diffusione, quindi dal lato accettazione, maggiore sarà la probabilità che un cliente si attrezzi per pagare col proprio smartphone. C'è anche chi dice che bisogna avere successo tra i giovani, perché i giovani sono uno dei motori di diffusione di queste applicazioni. Comunque è interessante registrare di quello che facciamo noi il fermento che c'è in questo mercato. Adesso parliamo di TV. Una delle evoluzioni del mercato televisivo è verso l'online, l'on demand, servizi sempre più personalizzati via internet. Allora, questa settimana TV, che è una società creata da Rai, Mediaset e La 7 per diffondere via satellite i programmi del digitale terrestre, era nata come piattaforma di garanzia per fornire quei canali dove non c'era o non c'è ancora oggi il digitale terrestre. Anzi, devo dire che vista la qualità della offerta di TV Sat, che è il servizio principale della società TV, devo dire che è da consigliare, cioè io abbandonerei il digitale terrestre e vi consiglio di, se avete una parabola, oppure vi consiglio di installare la parabola e ricevere tutti i canali che normalmente vedete sul digitale terrestre attraverso il satellite con maggiore qualità, perché ad esempio ci sono molti più canali in alta definizione, poi con la stabilità tipica del satellite. Comunque, a parte il servizio televisivo broadcast via satellite, che appunto si chiama TVSAT, questa settimana, anzi la prossima settimana, a partire da lunedì 18, verrà lanciato TV On, che è un sistema di video on demand che è possibile vedere su un televisore o anche su un televisore tramite un decoder di TVSAT. È una proposta molto interessante, ce l'ha raccontata e ci spiega di che cosa si tratta Alberto Sigismondi, che è consigliere delegato di TV. È un'applicazione a cui accedi sul tuo televisore qualora abbia il bollino TV On, cioè sia stato certificato TV On. Ci sono circa 2 milioni di fra televisori e decoder abilitati a riceverlo, e tu hai accesso a un EPG che va sia 7 giorni avanti sia 7 giorni indietro. L'EPG, ricordiamo, è una lista di programmi. Sì, è la Electronic Program Guide, quella che c'è normalmente sulle piattaforme a pagamento, diciamo, oppure su TVSAT, e che è la guida ai programmi che ti permette di navigare in modo intelligente, non semplicemente facendo zapping, ma andando a scegliere il titolo del programma che vuoi. E all'indietro cosa vuol dire? Che per 7 giorni tu puoi andare a recuperare un programma che ti sei perso magari ieri sera, lo trovi, questo per Mediaset, Rai e La 7 per ora, poi speriamo di avere tutti gli editori a bordo, e vi accedi semplicemente navigando in modo estremamente intuitivo e semplice, e te lo puoi rivedere. Quindi è la cosiddetta catch-up television inserita all'interno di una guida programmi di facile accesso per l'utente. Questo è un ambiente di, come dire, tecnologico, ma è anche una user experience, che finalmente è: io vado in un posto solo e trovo i contenuti di tutti. Sì, di tutti i broadcaster principali italiani che trasmettono sul digitale terrestre oppure via satellite sulla piattaforma TVSAT. Devo avere o il televisore o il decoder collegato a internet, giusto? Assolutamente sì, hai perfettamente ragione. Il decoder deve essere collegato a internet, possibilmente con una linea che abbia una capacità, un'ampiezza di banda ragionevole. E in questo modo tu hai, grazie anche all'ambiente tecnologico che TV One rappresenta, che sono poi delle specifiche tecniche che stanno alla base di tutto il ragionamento, hai la possibilità appunto di vedere contenuti in streaming ad alta qualità, HD e sicuri. Non, come dire, è un ecosistema TV One, non è semplicemente una tecnologia, è un concetto di ecosistema dentro il quale i broadcaster possono mettere i propri contenuti e l'utente ha grande facilità di accesso in un mondo controllato, per cui se i suoi figli, i figli tuoi vogliono vedersi dei contenuti online, lì siamo sicuri che sono i contenuti che sono andati in onda in televisione, non sono i contenuti che può trovare su internet OpenSea. Questo è un giardino recintato. Ti faccio un'ultima domanda sulla piattaforma TV, che è nata come piattaforma di garanzia per permettere di vedere i canali del digitale terrestre laddove il digitale terrestre non si vede e di vederli via satellite. Ma oggi potremmo dire che è meglio del digitale terrestre, se non altro per la presenza di un numero di canali in alta definizione molto elevato. L'hai detto tu. Quindi tu non aggiungi nulla, però vorrei che ci spiegassi qualcosa in più, cioè che cosa si vede, perché è anche un consiglio che vorremmo dare ai consumatori. Beh, allora, TVSAT è nata sicuramente come soluzione per accompagnare lo switch off del terrestre e per quelle zone dove la copertura del terrestre non era ottimale. In realtà poi con il tempo il satellite ha un po' mostrato delle possibilità ulteriori rispetto al DTT, in quanto, ti faccio un semplice esempio, il costo della banda è circa un quindicesimo sul satellite rispetto a quello terrestre, e questo consente per esempio a un editore come Rai di arrivare per la fine dell'anno a 11 canali in HD sulla piattaforma TV Sat, mentre sul terrestre fa fatica ad averne molti meno, proprio perché sì, ne ha due, il 501 e Rai Sport. Ecco, l'hai detto tu sempre, perché, come dire, il costo e lo spazio è molto più limitato sul terrestre rispetto al satellite. Questo non significa che il terrestre perda di importanza o di rilevanza, diciamo però che viene affiancato da un'altra piattaforma, che è quella satellitare, in questo caso TVSat, dove è più economico, è più razionale raggiungere quantità di pubblico abbastanza importanti con degli standard tecnologici, dei formati più importanti come l'HD o l'Ultra HD, con cui per esempio Rai ha trasmesso le 7 partite finali dell'Europeo, che erano visibili su TVSat. Ecco, questo secondo me è un'indicazione importante. Fare l'Ultra HD, Mediaset ha fatto su Premium e in Free la finale di Champions, però non so quanto possa diventare una soluzione sistemica. Io credo che invece sul satellite avere la banda sufficiente, necessaria per fare Ultra HD sia un'operazione più facile che non sul terrestre. Ciò non toglie che il terrestre è la piattaforma universale. Credo però che nel tempo le quote attuali di consumo, di accesso ai contenuti, troveranno un bilanciamento diverso nel corso degli anni, con un satellite e un broadband più presenti di quanto non lo siano adesso per l'accesso ai contenuti sul primo schermo, sul cosiddetto first screen, che è il televisore grande che c'è in soggiorno, che peraltro diventa sempre più grande e quindi ha bisogno di contenuti sempre di maggior qualità. Questo è 2024, siete all'ascolto di Radio 24, ci fermiamo per una breve pausa, poi parleremo di traduzioni con una startup, una società che offre un servizio sicuramente originale, interessante per chi deve fare molte traduzioni. Poi parleremo anche di leggi, regole, nuove regole per il mondo tecnologico, con un'attenzione particolare al mondo della robotica e delle auto autonome, dei veicoli automatici. Ci risentiamo tra poco. Riprendiamo questa puntata di 2024, io sono Enrico Pagliarini, il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024@radio24.it. Vi consiglio di scaricare la versione podcast, il file MP3 di 2024, un nuovo modo di ascoltare la radio, anche perché la versione podcast di 2024 è l'unica che vi offre tutte le interviste in versione integrale. Quindi maggiori contenuti nella versione digitale. Scriveteci una email se ancora non avete capito come fare per ascoltare il podcast. Ci sono ancora persone che ancora non hanno capito, ma insomma stiamo parlando di una cosa ancora nuova, anche se per alcuni è già 10 anni che magari ci ascoltano solo in versione digitale. Adesso parliamo di traduzioni. Sapete che nel mondo della tecnologia ci sono oramai software che aiutano i traduttori, o addirittura fanno molte cose in maniera completamente automatica e sono capaci di o aiutare chi deve fare una traduzione oppure addirittura tradurre. C'è un mercato molto vasto in tutto il mondo e una società che ho incontrato recentemente in una delle tappe di SMAO, una startup che si chiama Accurate, scritto con la Q, Accurate, ha creato un servizio per controllare quello che fanno le società di traduzione e proprio grazie alla tecnologia magari far risparmiare le aziende che devono fare tradurre. E pensate, quando sono le aziende che fanno servizi e prodotti che magari li vendono nel mondo e devono creare manuali o documentazione in altre lingue oltre all'italiano e all'inglese. Ne ho parlato con Marco Baglioni, che è uno dei fondatori di Accurate. Allora, si tratta di un'applicazione per le grandi aziende e organizzazioni che devono gestire elevati volumi di traduzione. Aziende che ad oggi si rivolgono direttamente ai traduttori, alle società di traduzione, e che non hanno il controllo su alcune informazioni, quali per esempio le quantità, cioè quanto per ogni documento devo effettivamente tradurre. Perché? Perché le società di traduzione hanno strumenti sviluppati ad hoc e forniscono al cliente un conteggio senza che esso possa realmente verificarlo. Quindi io in realtà in ogni documento ho delle ripetizioni, ho la memoria di traduzione che oggi è in mano alle società di traduzione, che noi invece portiamo in mano al cliente, cioè tutto ciò che ho tradotto in passato e quindi che posso recuperare. Quindi non ti devo far pagare. Esatto. E quindi quando analizziamo i documenti, mediamente noi su 500 progetti di traduzione a livello internazionale siamo riusciti a recuperare oltre il 30%. Ricordiamo che stiamo parlando di documenti molto complessi, non stiamo parlando della pagina di Word che è facile da tradurre, ma soprattutto è facile anche da conteggiare, da controllare. Stiamo parlando quindi di prodotti che vanno tradotti in tantissime lingue, testi complicati perché magari sono testi o scientifici o comunque tecnici, giusto? Assolutamente, e per ogni parola recuperata, quindi in meno da tradurre, si moltiplica il vantaggio per le lingue. Quindi più lingue un'azienda deve tradurre, più il vantaggio si moltiplica. Senti, voi di fatto avete fatto un software, giusto? Noi abbiamo creato una piattaforma che consente all'azienda di gestire tutto il processo di traduzione. Quindi carica il file, noi lo scarichiamo, facciamo l'analisi, forniamo al cliente un report con il conteggio e con, diciamo, la qualità del testo sorgente, cioè gli stiamo anche indicando se ci sono frasi che lui potrebbe riutilizzare meglio, perché ha scritto magari la stessa cosa in 10 modi diversi. Invece più diventa ripetitivo e più lui risparmia sulla traduzione. Segue tutto il processo, il cliente può chiedere offerte a più fornitori sulla base del nostro conteggio, quindi offerte confrontabili, conferma un'offerta, il traduttore esegue il suo lavoro scaricando i file, li ricarica lì e una volta ricaricati noi facciamo un controllo a posteriori sulle traduzioni, garantendo una maggiore qualità al cliente. Tutto questo permette al cliente di avere un unico ambiente web, accedere a qualsiasi posizione senza nessun investimento iniziale, immagazzinando, centralizzando la sua memoria di traduzione che cresce nel tempo, e questo amplifica anno dopo anno i risparmi. Senti, non potreste prendere dei traduttori e fare anche voi la traduzione? No, perché questo comporterebbe quello che oggi è in mano alle società di traduzione, cioè un conflitto. Io come società di traduzione vengo pagata sulle traduzioni, più traduco e più guadagno. Quindi non ho interesse a dire che bisognerebbe tradurre un po' di meno. Esatto. Noi staccandoci da questa realtà ci presentiamo come un soggetto imparziale, neutrale, che supporta il cliente proprio in questa fase. In più, essendo un mondo poco trasparente con tecnologie abbastanza complesse, i nostri skill, le nostre competenze possono fornire al cliente un supporto veramente importante. Senti, approfitto per chiederti come si è trasformato il mondo delle traduzioni, visto che oggi ci sono anche software che traducono in maniera automatica, e quindi in quel caso io che sono un'azienda potrei utilizzare un software che traduce in maniera automatica spendendo molto meno o addirittura spendendo quasi nulla. È un mondo molto interessante che sta evolvendo, soprattutto grazie all'ingresso di soggetti come Google, Microsoft, che stanno investendo molto sulla traduzione automatica e che evolve molto più rapidamente di quello che si pensa. Sono software che possono essere integrati e che le aziende possono utilizzare risparmiando veramente tantissimo. Ovviamente tutto dipende da come si imposta il testo e il documento all'inizio. I software devono ancora migliorare, ma già oggi si possono fare degli enormi passi avanti. Però mi sembra di capire che l'uomo è ancora importante, anche perché sennò se facesse tutto il software, la vostra soluzione non avrebbe molto senso, perché il software già vi fa risparmiare un sacco, quindi più di tanto non posso risparmiare. Beh sì, che il giorno in cui la traduzione automatica sarà perfetta, noi non serviremo più a niente. In molti ambiti ancora oggi l'uomo ovviamente fa la differenza, dall'editoria ma in tutti gli ambiti. Quindi noi stiamo seguendo con attenzione l'evoluzione di questa tecnologia, ma la lingua è qualcosa che si evolve ogni giorno e quindi l'uomo per ora è ancora preponderante. Senti, i controlli che fate voi li potete fare in quante lingue? Tutte le lingue. Tutte le lingue del mondo? Tutte le lingue del mondo. Anche quelle scritte in caratteri come le orientali? Assolutamente. Diciamo che le tecnologie che utilizziamo sono quelle che derivano dal mondo della traduzione, che quindi vengono fatte per leggere qualsiasi lingua, e quindi non è quello il limite, assolutamente. Apprezzabile la sincerità e anche la pragmaticità di Marco Baglioni di Accurate, che dice: beh, quando i computer saranno perfetti e sapranno fare tutto da soli, il nostro servizio non servirà più a nulla. Però consapevoli del fatto che ci vorranno ancora anni, non so quanti, se pochi o molti, per adesso questo servizio è sicuramente una proposta interessante. Dunque, quasi tutte le settimane leggiamo, sentiamo, ascoltiamo anche a Radio 24 notizie che in qualche modo sono legate ai robot, non solo quelli fisici, ma anche a robot software. A volte non in modo esplicito, ma notizie che si collegano all'evoluzione della robotica. Beh, sicuramente nelle ultime settimane avrete certamente sentito parlare degli incidenti che sono accaduti a dei veicoli Tesla, che hanno forse il sistema più sofisticato di assistenza alla guida. Non sono veicoli completamente autonomi, ma ci si avvicinano in alcune condizioni. Però non bisogna esagerare, quindi per il momento non hanno ragione le persone che purtroppo hanno subito questi incidenti, perché l'automobile te lo dice anche quando tu attivi questi sistemi, ti dice: attenzione che però la responsabilità è tua, il veicolo deve essere controllato e pilotato da te. Tutti questi sistemi ti aiutano in molte, molte situazioni. Però siamo molto vicini alla capacità dei veicoli di guidare da soli. Comunque non ci sono solo veicoli e casi relativi a veicoli. Ad esempio, la polizia di Dallas, che ha ucciso la persona che ha a sua volta ucciso alcuni poliziotti la scorsa settimana, lo ha fatto utilizzando un robot che aveva a bordo, su un braccio, aveva una bomba. Questa bomba è stata fatta esplodere e questo attentatore è stato eliminato. Però qui, soprattutto negli Stati Uniti, ci si fanno molte domande, ci si chiede: ma se poi qualcosa, ad esempio, non funziona di questo robot, e succede qualcosa che è fuori del controllo del pilota di questo robot, di chi è la responsabilità? E molti chiedono regole per determinare tutta una serie di casistiche nell'utilizzo di questi robot, perché pare che negli Stati Uniti molte forze di polizia stiano già oggi utilizzando robot, o comunque siano pronte per utilizzare questi robot, che possono anche uccidere. Ovviamente la decisione finale di questo viene presa da un uomo che controlla in remoto questo robot, però nel giro di pochi anni potrebbero esserci software di intelligenza artificiale che potrebbero decidere da soli. C'è un grandissimo dibattito, e uno dei problemi è come costruiamo queste nuove regole, cioè come costruiamo le nuove leggi, quanto tempo ci mettiamo, perché in questo caso bisognerebbe essere più veloci, e questo vale in generale per tutta la tecnologia. La tecnologia sta imponendo nuove soluzioni, nuovi servizi ad una velocità che non è tipica della velocità con cui vengono create le leggi. Insomma, questa lunga premessa per introdurvi Andrea Bertolini, che è un ricercatore che si occupa proprio di questi temi alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. Bertolini, benvenuto a 2024. Grazie. In generale, di che cosa ti occupi, e vorrei capire di che cosa si stanno occupando tutti i ricercatori che, come te, si interessano delle leggi e di come queste leggi dovrebbero essere adattate ad alcune nuove tecnologie che si stanno affacciando. Non è un percorso, immagino, molto semplice. No, sicuramente no. E l'ambito di studio principale è quello delle regole di responsabilità. L'abbiamo visto anche in questi giorni con i ben due incidenti che hanno coinvolto una Tesla, quindi la macchina a guida autonoma, e questo pone chiaramente dei problemi di responsabilità, cioè quale soggetto dovrà essere chiamato a risarcire i danni che vengono cagionati dall'uso di queste tecnologie. Questa è sicuramente una delle tematiche più importanti, ed è molto importante perché è in fondo lo stesso tema degli incentivi che si danno agli imprenditori per sviluppare questo tipo di tecnologie, questo tipo di innovazione e portarlo sul mercato. C'è uno studio di McKinsey molto interessante di un paio di anni fa, in cui si dice che l'impatto della robotica sul mercato a livello globale entro il 2025 potrebbe essere anche di 4,5 trilioni di dollari l'anno, quindi un mercato sicuramente molto rilevante. E è interesse strategico italiano, ma soprattutto europeo, di far sì che la nostra ricerca robotica, cioè l'innovazione che c'è nei nostri laboratori, si traduca in prodotti che possono essere venduti e quindi nello sviluppo di una nuova industria, cioè l'industria robotica. Sì, questo vale in generale per tutte le tecnologie o c'è particolare attenzione al mondo della robotica proprio per le conseguenze che potrebbero in qualche modo essere anche devastanti a livello sociale? Sì, sicuramente la robotica pone dei problemi specifici. In primo luogo connessi alla dimensione materiale del robot, cioè il robot è software che cammina, se vogliamo, in molti casi, o comunque ha una dimensione fisica che gli permette di agire sul mondo circostante, quindi fonde, diciamo, i problemi tipici di macchine, di realtà tradizionali, di prodotti tradizionali, con tutti i problemi che a oggi erano relegati invece magari al software. E questo pone dei problemi nuovi, con un grosso impatto. E anche se pensiamo invece ai softbot, cioè ai robot che sono puro software, avranno una importanza fondamentale in settori strategici come la regolazione dei mercati finanziari, perché softbot verranno utilizzati dalle principali banche sia per trading ma anche per consulenza finanziaria, e quindi la regolazione dei mercati finanziari, ad esempio, non potrà che passare attraverso la regolazione delle tecnologie che vengono utilizzate normalmente sui mercati finanziari, e tra queste tecnologie ci saranno sicuramente tecnologie robotiche. Quindi questo è un altro argomento di grande interesse a livello europeo ma anche nordamericano rispetto alla regolazione della robotica, ecco. Certo, direi che in questo caso il verbo al futuro potrebbe anche già essere declinato al presente, perché soprattutto appunto in campo finanziario l'utilizzo di software, di automazione e anche con già qualche accenno di intelligenza artificiale è sicuramente una realtà. Ci puoi fare degli esempi di come le regole dovrebbero cambiare? Perché immagino che poi nel mondo della ricerca si stiano facendo tantissime ipotesi, poi dovranno essere i regolatori a costruire queste leggi e speriamo che almeno vengano fatte a livello macro, quindi a livello europeo e non solo in Italia o in Francia o in Germania, per avere una uniformità. Ma alcuni esempi per capire quali sono i problemi e che cosa potremmo o dovremmo fare? Benissimo, allora, innanzitutto sì, di queste cose si stanno occupando soprattutto i legislatori a livello europeo. Io ho avuto la fortuna di fare un'audizione al Parlamento per la prima volta nel 2014 di fronte alla Commissione Affari Legislativi del Parlamento Europeo e in conseguenza di quell'audizione in cui ho presentato alcune delle mie ricerche, e soprattutto rispetto ai profili di responsabilità, è stata istituita al Parlamento una commissione per la regolazione della robotica e dell'intelligenza artificiale che sta lavorando proprio sulla regolazione di questi temi a livello europeo, perché molte sono le materie che sono già di competenza europea e che hanno ad oggetto, appunto, potrebbero avere ad oggetto la regolazione anche di tecnologie robotiche. Quindi questo è sicuramente un dato molto positivo, cioè l'Unione Europea si sta muovendo abbastanza per tempo su questi temi con grande interesse e attenzione. Uno degli aspetti principali, come dicevo, è quello della responsabilità, perché chi paga i danni determina appunto il modificarsi di meccanismi assicurativi, quindi anche del mercato assicurativo connesso a determinate tecnologie, in alcuni casi già esistenti, pensiamo all'assicurazione per le automobili. Chiaramente se a guidare la macchina non è più un essere umano ma un software, il sistema assicurativo oggi esistente risulta superato, perché il sistema assicurativo calcola il premio in funzione dell'età, del sesso, della provenienza geografica del guidatore, e se a guidare la macchina non è più un essere umano ma è un software, anche soltanto i dati statistici relativi agli incidenti diventano obsoleti o comunque molto meno rilevanti, e questo è, diciamo, chiaramente un problema. Ma anche individuare come la responsabilità deve essere ripartita tra il produttore e l'utilizzatore, perché non si potrà più parlare, o almeno non completamente, di guidatore, no? Nel caso del veicolo autonomo, ma l'utilizzatore del veicolo. E questo va a influenzare sia anche i meccanismi assicurativi, perché l'assicurazione dovrà capire se deve assicurare il produttore del veicolo o piuttosto l'utilizzatore, come avviene oggi nel caso dell'RC auto, e contro quali rischi. E questo di per sé, come le regole già vigenti opereranno fornendo incentivi ai vari soggetti, utilizzatori e produttori, a mio avviso modificherà anche il tipo di tecnologia che si verrà ad affermare. Ad esempio, se noi pensiamo ai veicoli autonomi, possiamo almeno pensare a due distinti modelli di automazione nella guida. Uno, per semplicità, potremmo dire quello della Google Car, in cui c'è un veicolo che non ha neppure un volante, sì. E quello invece della Tesla, in cui c'è un veicolo in cui, se si vuole, si preme un pulsante, questo veicolo va in modalità autonoma, ma se non si vuole si può continuare a guidare e quindi a mantenere il controllo sul veicolo. Questo è sicuramente qualcosa di molto importante, e l'opzione per una tecnologia o per l'altra in parte dipenderà da come le regole esistenti, quelle che eventualmente potrebbero sostituirle, funzioneranno nel fornire incentivi a produttori ed utilizzatori. Una delle cose che io menziono sempre quando vado a parlare alle istituzioni europee, e ci sono stato diverse volte nell'ultimo anno, è l'importanza di superare una logica di responsabilità come attribuzione di colpa e preferire invece una logica di gestione del rischio. Cosa vuol dire? La responsabilità può essere intesa come un rimprovero, cioè dire: tu hai fatto così ma avresti dovuto fare in un modo diverso, quindi tu produttore hai prodotto questo prodotto che non era sufficientemente sicuro e quindi devi rispondere dei danni. Questo è il sistema attualmente vigente, che porta tutta una serie di problemi tecnici che possiamo semplificare dicendo che accertare una responsabilità del produttore richiede un contenzioso molto complesso, se non addirittura proibitivo per l'utilizzatore, e questo non è accettabile in un sistema di crescente automazione. Sì. E invece una logica di gestione del rischio, risk management, è fortemente influenzata, diciamo, dalle teorie di analisi economica del diritto nordamericane a cui io mi rifaccio nei miei studi, cerca di attribuire la responsabilità non in funzione di una colpa, ma in funzione del fatto che il soggetto è nella posizione migliore A per prevenire il danno e B per risarcirlo. Cosa voglio dire? Se noi creiamo una regola di responsabilità come quella vigente, che lascia incertezza se sia responsabile in alcuni casi l'utilizzatore, in altri casi il produttore, il risultato sarà grande contenzioso, molti litigi in tribunale, quindi grandi costi amministrativi e ritardo nell'emersione della tecnologia. Se noi, riformando il sistema normativo, rendessimo responsabile nel 100% dei casi, diciamo, estremizzando, o il produttore o l'utilizzatore, poi con meccanismi assicurativi e di prezzo distribuiremmo questo rischio. Cosa voglio dire? Supponiamo che il produttore sia responsabile nel 100% dei casi di qualsiasi incidente cagionato da un veicolo autonomo. Il produttore può andare da una compagnia assicuratrice, comprare un'assicurazione per tutta la flotta di macchine che produce. Il costo di quel contratto di assicurazione entra nella sua funzione di prezzo e se entra nella sua funzione di prezzo, il produttore potrà trasferire quel costo in totalità o in parte attraverso i meccanismi di mercato sul consumatore che compra la macchina e a quel punto la comprerà già dotata di un contratto di assicurazione che lo copre rispetto a tutti i rischi che andrà a affrontare. In questo caso non ci sarà bisogno di accertare la responsabilità o di distribuire la responsabilità fra il produttore e l'utilizzatore, ma meccanismi di mercato e di prezzo avranno già distribuito di fatto questa responsabilità fra tutti i soggetti, il produttore che ha interesse a mettere il prodotto sul mercato e l'utilizzatore che ha interesse ad utilizzarlo. Questo vuol dire andare un po' oltre le logiche che si sono adottate fino ad oggi, ma è un tipo di innovazione normativa che favorisce l'emersione anche di innovazione in termini di prodotti tecnologici. Certo. Una domanda sulle auto. Sono in effetti stanno monopolizzando l'attenzione di molti, della stampa, del mondo della finanza, della tecnologia. Mi sembra di capire anche del mondo di chi si occupa delle leggi, delle regole, cioè adesso abbiamo parlato molto di automobili, siamo partiti invece parlando di robotica e di automazione. Sì, beh, diciamo che ci sono vari modi di intendere la robotica, cioè la nozione di robot è atecnica perché deriva da un libro di fantascienza del 1922, il termine robot proprio, e le tipologie di tecnologie robotiche che sono riconducibili alla robotica sono tantissime. Sicuramente si può ricondurre alla robotica anche il problema dei veicoli autonomi, perché buona parte del problema della robotica è un problema di automazione, cioè di rendere qualcosa autonomo e indipendente da un puntuale controllo dell'essere umano. Però lo stesso discorso, lo stesso tipo di analisi si può fare rispetto ad altre tipologie di prodotti robotici, ad esempio si può fare rispetto anche a softbot destinati a svolgere compiti di consulenza, se pensiamo ad esempio a Watson, il robot dell'IBM. Idealmente in un futuro non troppo remoto Watson dovrebbe radicalmente modificare la disciplina, la professione medica. Perché? Perché Watson sarà uno strumento molto avanzato per la diagnosi. Noi potremo dare a Watson dei parametri relativi ai nostri pazienti e Watson, attraverso meccanismi di data mining di apprendimento, riuscirà a trovare delle soluzioni, delle strategie di cura per il paziente che proporrà il medico. A questo punto, ad esempio, si pone il problema cosa debba fare il medico, se il medico debba necessariamente conformarsi all'indicazione data da Watson, oppure se il medico debba utilizzare la propria professionalità eventualmente allontanandosi dalla raccomandazione offerta da Watson. questo ha un impatto rilevantissimo sulla professione medica e su quel problema che già conosciamo oggi, che si chiama medicina difensiva, cioè quella tendenza che alcuni medici hanno per tutelarsi da possibili azioni legali di svolgere accertamenti clinici in eccesso, comunque di non distaccarsi da alcuni tipi di raccomandazioni o procedure, anche laddove magari penserebbero che una strategia di cura differente potrebbe essere in concreto preferibile, ma hanno esigenza legittima di minimizzare il rischio di essere poi tenuti responsabili di ciò che hanno fatto. Si possono fare esempi relativi alle protesi robotiche, ad esempio noi qui a Sant'Anna nel nostro laboratorio di ingegneria abbiamo protesi robotiche di mani e di esoscheletri particolarmente avanzate. E il problema che pongono da un punto di vista normativo non è molto diverso quando si parla di responsabilità. Proviamo a ipotizzare che una persona disabile, perché con che ha subito un'amputazione, le venga impiantato un braccio robotico. Ecco, questo braccio robotico ragionevolmente verrà utilizzato per qualsiasi tipo di funzione, che potrebbe essere quella di portare un sacchetto della spesa, potrebbe essere quella di sollevare un peso in palestra, ma potrebbe anche essere quella di guidare una macchina. E faccio questo esempio specifico perché in Austria nel 2008 un amputato bilaterale, cioè aveva perso entrambe le braccia, ha ricevuto l'impianto di due protesi robotiche, di due braccia robotiche, e in conseguenza di ciò era stato autorizzato a guidare la sua macchina. Ecco, quest'uomo ha subito un incidente nel quale ha perso la vita proprio mentre guidava la macchina. Ora, noi non sappiamo se questo incidente sia dovuto a un malfunzionamento della protesi, però possiamo ipotizzare che, posto che nessun apparecchio tecnologico è sicuro nel 100% dei casi, ma avrà sempre dei malfunzionamenti, il medesimo malfunzionamento che avvenga mentre sto portando la spesa o mentre sto sollevando un peso in palestra o ancora mentre sto guidando possa avere delle conseguenze molto diverse. In un caso un danno modesto, si romperà qualcosa nel sacchetto, in un caso magari un danno fisico alla mia persona, se sto guidando invece magari potrei anche coinvolgere terze persone. Sì. Ora, alla luce del diritto esistente, di tutti questi danni molto probabilmente verrebbe chiamato a rispondere il produttore. Allora, se noi non cerchiamo di modificare un po' le norme esistenti e per fornire incentivi migliori, è molto difficile ipotizzare che i produttori vogliano portare sul mercato questo tipo di tecnologia. E questo tipo di tecnologia invece è certamente desiderabile per motivi economici ma anche sociali, di inclusione ad esempio di persone con disabilità. Chiaro. Ma gli esempi potrebbero essere sì, moltissimi. Ancora molti. Un'ultima domanda relativa a, appunto, ai legislatori. I parlamenti e in particolar modo il Parlamento europeo, non voglio parlare di quello che sta succedendo negli Stati Uniti o in altri paesi, insomma guardiamo a casa nostra, si stanno occupando di questo, avvertono anche l'urgenza, perché è vero che le automobili completamente autonome non arriveranno domani, ma non arriveranno forse nemmeno fra 10 anni. Certo. Sì, l'urgenza è molto percepita e in Europa posso dire, io sono da cittadino europeo, che sono piuttosto soddisfatto dell'attenzione che stanno dedicando a questi temi, e in questi giorni è stato pubblicato online, non è ancora approvato, si tratta di una bozza, ma è stato comunque prodotto un documento da parte del Parlamento europeo ed in particolare di questa commissione per la regolazione della robotica e dell'intelligenza artificiale, che ha recepito moltissime delle raccomandazioni e delle considerazioni che ho avuto occasione di fare in questi anni, e sembra muoversi proprio nella giusta direzione. Ora, questo è un documento non ancora definitivo, quindi ci saranno nei prossimi mesi delle consultazioni di altri comitati all'interno del Parlamento europeo con specifiche competenze, come del resto avviene in ogni Parlamento, cioè una proposta viene sempre valutata da comitati che hanno come materia di competenza altre rispetto a quella specificamente oggetto del parere, e se venisse adottato questo documento sarebbe un importante documento di impulso rivolto alla Commissione europea, che quindi potrebbe, laddove volesse, adottare delle specifiche discipline normative e profili di responsabilità, ed in particolare anche in relazione ai veicoli autonomi, sono chiaramente presi in considerazione. Prima ci chiedevamo perché si finisce a parlare di veicoli autonomi. Se ne finisce a parlare perché se ne sente parlare in televisione, perché questa tecnologia anche alla radio è molto discussa, ampiamente sì, discussa a tutti i livelli, ma soprattutto, come hai detto poc'anzi, perché è una tecnologia che ci sarà a breve. Certo. È più difficile ipotizzare che avremo tutti nelle nostre case un robot umanoide che si prenda cura delle nostre case, dei nostri figli, dei nostri anziani, perché è una tecnologia sicuramente più remota, più complicata, più sofisticata, che richiederà più tempo per essere sviluppata. Ma i veicoli autonomi sono sicuramente a noi molto più vicini. Certo, e certo. Queste cose le stanno prendendo in considerazione seriamente. Poi ovviamente i procedimenti di adozione di una disciplina normativa sono complessi, però diciamo che i passi in questa direzione stanno venendo fatti, e non mi sembra che l'Europa possa essere considerata in ritardo rispetto agli Stati Uniti o ad altri paesi. Molto bene, io ringrazio Bertolini per essere stato con noi, a presto e buon lavoro. Grazie a voi. E così concludiamo questa puntata di 2024, come sempre grazie per la vostra attenzione. Io sono Enrico Paglierini, il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024@radio24.it. Ci risentiamo la prossima settimana.